Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi per l'Europarlamento. La Cina non è un'economia di mercato e ancora non soddisfa i 5 criteri stabiliti dall'Unione Europea per definire le economie di mercato. Agli occhi del Parlamento Europeo, la Cina non è un'economia di mercato. La risoluzione votata oggi a Strasburgo non ha potere vincolante, ma ha un suo peso politico. Entro fine anno l'Unione Europea deve decidere se accordare questo status alla Cina, come previsto dal protocollo d'ingresso del paese asiatico nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, firmato 15 anni fa. Tutti i principali gruppi politici si sono espressi contro questa possibilità. D'altro canto, concedere lo status di economia di mercato alla Cina comporterebbe per le autorità comunitarie un indebolimento delle difese commerciali nella lotta contro il dumping, ossia contro la produzione sotto costo. Molti osservatori sostengono che la Cina è un paese con una economia ancora molto dirigista, nella quale le aziende sono spesso sussidiate dallo Stato. Il voto di oggi influenzerà le valutazioni della Commissione europea, che entro breve dovrà fare una proposta agli Stati membri. In questo momento politico ed economico sembra rafforzarsi il gruppo di paesi contrari a qualsiasi concessione alla Cina, tanto più mentre l'industria siderurgica europea è in piena trasformazione anche a causa dell'aggressiva concorrenza di molti paesi emergenti. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sarebbe una catastrofe, lo ha detto oggi il presidente della Commissione Europea Juncker a Berlino parlando all'Europa Forum. Sono dell'opinione, ha detto Juncker, che abbiamo bisogno del pragmatismo britannico in Europa. Non posso escludere, ha poi detto, che l'uscita della Gran Bretagna potrebbe sollecitare la voglia anche in altri paesi. Nuovo calo per la produzione industriale nell'Eurozona, che a marzo ha segnato meno 0,8% dopo il dato già negativo di febbraio di meno 1,2%. Su anno invece c'è stato un incremento dello 0,2%. Lo dice l'Eurostat, anche nei 28 l'indicatore è sceso registrando meno 0,5% dopo il meno 1% del mese precedente, mentre rispetto al marzo del 2015 c'è stata una crescita dello 0,3%. La situazione per l'Italia resta invariata dopo il 0,7% di marzo. Positivo il valore su base annua con più 0,5%. Nasce il portale della Commissione Europea dedicato alla giurisprudenza. 4 milioni di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e di 7 Stati membri: Francia, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia, Germania, Repubblica Ceca e Finlandia. Tutto a portata di click. È un vero e proprio tesoro quello messo in rete da ECLI, il nuovo motore di ricerca della giurisprudenza lanciato dalla Commissione Europea. Un progetto collegato al portale europeo della giustizia European Justice, che dal 2010 guida i cittadini, le imprese e i professionisti del diritto attraverso le procedure giudiziarie, aiutandoli ad esempio a trovare un avvocato oppure a capire come adire i tribunali dei diversi stati. All'insegna di una giustizia più accessibile, ECLI, che sta per Identificatore Europeo della Giurisprudenza, consentirà di reperire più facilmente le pronunce dei tribunali nazionali e internazionali su una determinata questione giuridica, per verificare come sono stati trattati casi simili in passato e usare queste informazioni nei casi attuali. Un'operazione fino ad oggi difficile e dispendiosa in termini di tempo. Il motore di ricerca è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione tranne l'irlandese. Gli utenti potranno effettuare ricerche per parole chiave, per paese, per tribunale e per data. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci risentiamo questa sera con Europa 24 all'interno di Effetto Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.